riepilogare le giornate. Vi invito a partecipare a queste varie iniziative che si stanno coordinando sul territorio in vista di queste date, quindi dal punto di vista sia delle iniziative artistiche che di tutto quello che possano essere le uscite che faremo per iniziare, diciamo, ad aprire un po' la tematica. E insomma, le cose state nominate verranno comunque pubblicate sul blog, che è setfirenze.blog. E appunto il primo giorno ci sarà il presidio, ci sarà questo prologo itinerante con Firenze No Coste, si arriverà ad architettura, quindi la prima, diciamo, serata sarà all'interno dello spazio universitario, anche per cercare di aprire anche lì una breccia su questo tema. E dopo ci saranno, insomma, anche le iniziative, stiamo continuando, insomma, a quadrare la cosa. Il giorno dopo all'Emerson, dove ci saranno i tavoli e i laboratori, e per finire appunto la domenica, dove ci sarà, che ci troveremo qui per poi partire con questa giornata dedicata a questo carnevale. Tra l'altro, su questo, insomma, sta mobilitando anche, diciamo, per sempre la connessione con quest'altra assemblea legata alla difesa delle autogestioni. C'era una buona, diciamo, mobilitazione, quindi si invita tutti sia a partecipare al laboratorio, altrimenti, insomma, anche a pensare indipendentemente come agire in quella giornata, perché ovviamente è una manifestazione molto aperta, dove in realtà, insomma, tanto di tutti quanti determina una buona riuscita. Insomma, questo è l'invito. Sì, no, niente, in realtà, si interviene veramente, si interviene il carnevale, ognuno di noi c'è un suo motivo per, no, essere interessato alle lotte contro la disinformazione, quindi anche per verificare su quello. All'inizio c'era l'idea che magari gli spazi riuscissero tramite l'assemblea a, no, trovare un proprio tema e portarlo in manifestazione in maniera di maschera, di forma, diciamo, visibile.